Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi giornata della donna e quindi auguri a tutte le ascoltatrici. Mi raccomando, assieme alla Mimosa fatevi regalare un libro. E oggi vi parlo di titoli che parlano proprio della passione che accomuna gli ascoltatori di questa trasmissione, cioè il libro. Il libro che può essere una passione travolgente, ma anche una fonte di business, un vero e proprio mercato, come per esempio emerge dalla prima proposta che vi faccio. Il titolo è di uno scrittore gallese famoso soprattutto per i suoi racconti anche per ragazzi, uno dei quali è diventato un film di successo, cioè La fabbrica di cioccolata. Mi riferisco a Roald Dahl. Il titolo del libro è Il libraio che imbrogliò l'Inghilterra, pubblicato da Guanda, 80 pagine, 6,50 euro, tradotto da Massimo Bocchiola e accompagnato da un altro racconto, Lo scrittore automatico. Il racconto che vi presento è tipico dello stile di Dahl, realistico e ironico, con un crescendo di suspense e un finale a sorpresa che scioglie la tensione e gli interrogativi che si accumulano fin dalle prime pagine. Sentite le righe di apertura di questo libro che ci riportano appunto al clima dei cercatori di tesori libreschi e dei loro santuari, le librerie antiquarie. Se in quei giorni da Trafalgar Square vi incamminavate per Charing Cross Road, dopo pochi minuti sul lato destro della via avreste incontrato un negozio che alla sommità della vetrina recava la scritta William Baggage, libri rari. Se poi sbirciavate nella vetrina stessa, avreste constatato che le pareti erano tappezzate di libri dal soffitto al pavimento. E se, a questo punto, aveste spinto la porta e foste entrati, avreste subito sentito il lieve odore di vecchio cartone e foglie di tè che pervade gli interni di tutte le botteghe londinesi di libri usati. Quasi sicuramente avreste trovato anche due o tre clienti. Figure silenziosi e spettrali, in soprabito e cappello floscio, intente a rovistare fra le serie di volumi di Jane Austen o Trollope, di Dickens o George Eliot, nella speranza di trovare una rara prima edizione. Il libro ci accompagna da secoli, anzi da millenni, possiamo dire da molto prima che venisse inventata la stampa. Pensiamo per esempio alla diffusione che ebbero le grandi biblioteche nel mondo greco e romano. E sulla fortuna del libro nella classicità si sofferma il volume di Horst Blank, che è un archeologo tedesco, Il libro nel mondo antico, è pubblicato da Dedalo, 384 pagine, 27 euro, tradotto e curato da Rosa Otranto. In questo libro di Blank troviamo una vincente cronaca delle origini, della diffusione della scrittura greca e latina e poi della creazione e della diffusione delle opere letterarie, del successo e delle diverse tipologie delle biblioteche, del grado di alfabetizzazione e quindi del successo dei libri descritte nelle diverse tipologie nelle quali si presentava il libro nel mondo antico, soprattutto due, il rotolo e il codice. Veniamo invece adesso a un romanzo giallo di cui è protagonista un libraio parigino, L'assassino del Marais, il titolo del libro di Claude Isner, che è lo pseudonimo di due sorelle, Liliane Corbe e Laurence Lefebvre. La prima è buchinista, cioè è proprietaria di una bancarella di libri sulla Rive Droite della Senna, la seconda invece è una libreria sulla Rive Gauche. Evidentemente la concorrenza non impedisce alle due sorelle di collaborare nella scrittura e infatti questo, come forse qualcuno degli ascoltatori ricorderà, non è il primo volume in cui troviamo questa figura di investigatore, questa strana figura di investigatore, e cioè un libraio. Il volume è edito da Nord, 348 pagine, 16,60 euro, tradotto da Mara Dompé, e siamo quindi nel pieno del mondo di Victor Legis, il libraio parigino di fine Ottocento che qui è alle prese con un caso particolarmente appassionante che ci riporta nel pieno dell'offensiva degli anarchici che caratterizzò l'Europa tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento. Quanto possa essere ossessiva la libidine di possedere libri, o come la chiamava il grande editore italiano Vanni Scheiwiller, la libridine, dimostra in poche efficacissime pagine un breve racconto di un grande scrittore francese, Gustave Flaubert, padre di Madame Bovary, del quale viene pubblicato Bibliomania, un volumetto pubblicato da Mursia, 32 pagine, 3,50 euro, tradotto da Vesna D'Arena. È la storia di un libraio spagnolo trentenne, monaco spretato, che cadrà nelle spire di una passione veramente morbosa per i libri antichi e per i manoscritti. Sentite da queste righe la perfidia con la quale Flaubert riesce a trasmettere l'immagine un po' sordida e morbosa di questo collezionista. No, non era il sapere che amava, era la sua forma e la sua espressione. Amava un libro perché era un libro, amava il suo odore, la sua forma, il suo titolo. Ciò che amava in un manoscritto era la sua vecchia data illeggibile, le lettere gotiche bizzarre e strane, le spesse dorature che appesantivano i suoi disegni, erano le sue pagine coperte di polvere, polvere di cui aspirava deliziato il profumo soave e delicato. Era la bella parola finì, circondata da due amorini, sorretta da un nastro, appoggiata a una fontana, incisa su una tomba o adagiata in un cestino tra le rose, le mele d'oro e i mazzi di fiori blu. Questa passione l'aveva assorbito interamente, non mangiava quasi, non dormiva più, ma pensava per notti e giorni interi alla sua idea fissa, i libri. Sulla lettura torna poi un classico che è La storia della lettura, una raccolta di saggi curata da Guglielmo Cavallo e Roger Chartier e pubblicato dalla Terza, 482 pagine, 20 euro. È un'edizione aggiornata e ampliata di un classico nel quale si presenta appunto la lettura come un'attività che ha sempre accompagnato l'uomo, anche se il significato che ha assunto questa attività è stato abbastanza differente nel corso dei secoli. Infatti è cambiato il rapporto con il lettore, è cambiato l'obiettivo dell'attività della lettura, è cambiato l'approccio, ciò che cerchiamo nel libro e ciò soprattutto da cui siamo ammaliati quando leggiamo un libro. E questo volume ci racconta appunto il rapporto della lettura con le diverse fasi storiche. Cambiando leggermente genere, ma restando sempre nel campo della comunicazione, vi segnalo infine il volume Il secolo dei media, riti, abitudini, mitologie di Peppino Ortoleva, grande esperto di media, sui quali ha la cattedra dell'Università di Torino. Il libro è pubblicato dal Saggiatore, 334 pagine, 19 euro. Affrontiamo qui un tema del quale siamo tutti protagonisti come produttori e consumatori di comunicazione e informazione. L'autore parte da una considerazione che è sotto gli occhi di tutti, il grande aumento di informazione. Aggiunge anzi Ortoleva che forse l'informazione non soltanto è ormai molta, ma è ormai addirittura troppa. Più informazione, scrive Ortoleva, di quanta siamo in grado di consumare, più media a disposizione in ogni momento di quanti effettivamente ci servono. Deriva da questo fenomeno, tra l'altro, un progressivo accumulo e un sempre crescente sovraccarico, lo chiama così Ortoleva, di stimoli che sembrano contendersi continuamente la nostra attenzione. Il risultato di questo processo e di questa inflazione di informazione è una serie di trasformazioni profonde e spesso definitive che hanno avuto luogo nella nostra società e che secondo Ortoleva si sublimano in due fenomeni sui quali si sofferma: la fine dei tabù sessuali e la diffusione della pornografia, e poi un aspetto meno tradizionale e più insolito, e cioè la fine del giuramento. Nota Ortoleva come nessuno dica più parola d'onore, un'espressione che rimandava appunto alla solennità di un'affermazione di cui oggi si è perso il senso. Per quale ragione? Beh, scrive lui, perché sono stati riassorbiti nel continuum generale e fungibile dell'informazione, appunto, aspetti della vita, interpersonali o rituali, che in precedenza avevano valore e potere nella loro eccezionalità, nella loro separatezza, nel loro non essere riducibili a puro scambio informativo, come appunto il giuramento. Un atto solenne come il giuramento, dall'inflazione di informazione, è stato travolto, e quindi siamo tutti preda, siamo tutti vittime e partecipiamo a questo enorme continuo flusso di informazioni che domina la nostra vita. Sento che i bambini scalpitano e quindi... Il confettino. Vi propongo oggi un libro di sole immagini di David Merveille, il quale ci restituisce la leggerezza e la poesia di un celebre personaggio cinematografico, Monsieur Hulot, creato dal regista francese Jacques Tati. Il libro si intitola Il pappagallo di Monsieur Hulot, è pubblicato da Excelsior 1881, 14,50 euro. Perché un libro senza parole? Perché lo scopo di questo libro è incantare con le immagini grandi e piccini, suscitando nei piccini la richiesta di storie che sulla base delle immagini i genitori potranno poi elaborare. Quindi è un modo anche per stimolare la fantasia non solo dei bambini ma anche dei genitori e dei grandi che useranno il libro per raccontare delle storie di volta in volta diverse ai propri piccoli ascoltatori. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, parliamo adesso di storia e comincio con un libro che in realtà è a cavallo tra la storia e la politica, si intitola La storia falsa, l'autore è un famoso storico italiano, grande studioso soprattutto di storia greca e romana, Luciano Canfora, il libro è pubblicato da Rizzoli, 322 pagine, 17 euro. Canfora pone qui la questione dell'attendibilità di molte ricostruzioni storiche che spesso sono viziate dal non tenere conto o dal non voler tenere conto di autentiche falsificazioni e anche di documenti ufficiali fatte allo scopo di raggiungere determinati obiettivi di carattere magari politico. La storia è vecchia e infatti Canfora parte in questa sua disamina addirittura da Tucidide, arriva ai giorni nostri col falso testamento per esempio di Deng Xiaoping, il leader cinese, e si sofferma in particolare su due documenti. Il primo è il cosiddetto testamento di Lenin, che sarebbe stato al centro di un complesso gioco di potere e sarebbe stato manipolato da Stalin in persona per affermare il proprio potere e soprattutto per vincere lo scontro con Trotsky. L'altro episodio sul quale Canfora si diffonde ancora più lungo è una misteriosa lettera che giunse da un importante dirigente comunista Ruggero Grieco ad Antonio Gramsci quando questi era in carcere a San Vittore nel marzo del 1928. Proprio questa lettera avrebbe contribuito in modo determinante alla condanna poi che Gramsci e non soltanto con altri dirigenti comunisti avrebbero subito nel successivo processo. La ricostruzione di questa vicenda, ma ce ne sono anche altre, condotta con spirito filologico e grande precisione storica, si accompagna a uno stile che fa del libro quasi un giallo in certi punti e anche un saggio sull'eterna lotta del potere che non arretra davanti a nulla e a nessuno pur di affermarsi. Ma sentiamo l'autore. Buongiorno a Luciano Canfora. Salute. Professor Canfora, in questo suo libro, dunque, come ho spiegato, lei sottolinea il rapporto che può esserci fra la ricostruzione storica e la menzogna, o meglio, sugli effetti che la menzogna può avere nel far creare degli equivoci sui documenti storici. Oggi questo è più facile o questa tentazione è ancora possibile? In fondo il caso Watergate è il caso più clamoroso nel quale una menzogna fu smascherata e la storia fece il suo corso, per così dire. Senza dubbio, il caso Watergate fu un caso eroico di giornalismo che sarà ricordato negli annali della storia della libertà, potremmo dire, per il coraggio che ebbero coloro che vi si impegnarono. Ma il fatto che ci sia una volta un bel successo non cambia la situazione invece è di perenne pericolo di inquinamento, per lo più ad opera di chi detiene le leve del potere e quindi può addirittura interferire nella conservazione e nella struttura stessa del patrimonio archivistico. Aggiungiamo che nelle tecniche attuali, evoco la parola Photoshop per fare proprio un esempio ultramoderno, con le tecniche attuali la manipolazione diventa sempre più possibile e sempre meno decrittabile. Ecco, lei ha fatto un cenno alle fotografie, ma in fondo anche con tecnologie assai più arretrate a queste tecniche di depistamento di falsificazione autentica ricorrevano anche per esempio i regimi autoritari come quello comunista, ma non soltanto, mi pare. Sì, si cita sempre la foto in cui inizialmente ci sono tutti i grandi dirigenti della rivoluzione d'ottobre e poi via via che cadono in disgrazia, scompaiono dalla fotografia, ma questo è ingenuo, diciamo, è una forma rozza, si vede subito che è una fotografia manipolata, di immediata evidenza. Poi c'è un libro intero di uno studioso francese che si chiama Jobert, che ha scritto, molto spiritoso il titolo, Il commissario agli archivi, che raccolta non soltanto novecentesca, onnivora di casi di manipolazione di immagini. Oggi invece lo si può fare in maniera addirittura perfetta e impercettibile, quindi oggi davvero è un pericolo. Quindi questo cambierà radicalmente il mestiere dello storico? Assolutamente sì, dico senza esagerare, credo, che la critica testuale, cioè la critica di quel che c'è scritto nel documento, chiamiamola pure filologica per usare una parola grossa, diventerà sempre più importante, perché sarà l'unico veicolo che non può essere messo in ginocchio. Quindi si torna all'antico, le nuove tecnologie serviranno sempre meno. Non è che serviranno, sono preziose, ma sono pericolose. Certo. Senta, lei a un certo punto, nella parte dedicata alla famosa lettera Gramsci, polemizza, ma smonta la tesi di Paolo Spriano, che ha pubblicato queste lettere, e sostiene, leggo dal suo libro, che a un certo punto Spriano, nel difendere la sua tesi, che lei spiega nel libro, fosse ancorato a una malintesa lealtà di partito. Quindi sottolinea il fatto che la deformazione ideologica, insomma, o comunque l'attaccamento alle proprie idee, può corrompere molto la ricerca storica. È così diffuso fra gli storici questo vizio, secondo lei? Diciamo pure che non è un caso isolato, nel senso che lo storico è un essere concreto, in carne ed ossa, che ha le sue passioni, i suoi schieramenti. Lo storico totalmente super partes è una finzione, cioè una idea forza, un ideale, ma non è quasi mai una realtà. E noi lo sappiamo, cioè, nel senso che coloro i quali si occupano di ricerca storica devono sapere che hanno a che fare con racconti e ricostruzioni che risentono dell'ambiente, dello schieramento, delle passioni, del livello di informazione di cui lo storico disponeva. Lei pensi che per la Chiesa Cattolica per lunghissimo tempo Lorenzo Valla, che aveva smascherato la cosiddetta donazione di Costantino, era semplicemente un autore da mettere all'indice, e la donazione di Costantino alla Chiesa, no, del potere temporale, il fondamento del potere temporale, veniva considerata autentica, e questo ancora fino a tempi molto recenti, sebbene Valla lavorasse nel XV secolo, no, alla metà del 400. Certo. Senta, lei, che non è certo uno studioso di destra, dà un giudizio molto articolato a un certo punto su Togliatti, sottolineando come non sia possibile mai dare un giudizio a tutto tondo su un personaggio, ma che bisogna tenere conto delle contraddizioni che sono indiscutibili e che sono quasi fatali in qualunque personaggio, e che bisogna distinguere. Ecco, questo atteggiamento, secondo lei, è diffuso tra i suoi colleghi storici, o c'è piuttosto la tendenza a fare dei personaggi o degli eroi o dei personaggi malvagi al 100%? O negativi? Beh, insomma, direi che questo stadio è superato sostanzialmente da tempo. Interferiscono vicende concrete. Faccio un esempio. Quando apparve il primo volume della biografia di Mussolini, scritta da Renzo De Felice, alcuni sollevarono il problema dell'eccessiva simpatia che l'autore aveva per il suo oggetto. Io non credo, cioè nego che Renzo De Felice avesse un penchant per Mussolini. Aveva finalmente intrapreso uno scavo storiografico che fatalmente non era una sentenza di tribunale. Per il caso dei grandi esponenti, per esempio, del comunismo del XX secolo, accadrà certamente la stessa cosa, ma sta già accadendo più o meno. Per dire, anche la figura di Stalin, che ha avuto un momento lunghissimo di osanna quando era vivo, poi una condanna tremenda, violentissima da parte dei suoi successori, Khrushchev, il XX congresso, poi un parziale recupero quando Khrushchev cadde, e poi una condanna improvvisamente violenta, quasi isterica vorrei dire, nella storiografia occidentale dopo la fine dell'Unione Sovietica. Oggi che sono passati 20 anni, che non sono pochissimi, è diventato invece una materia fredda di cui si può parlare con serietà. Per esempio è uscito per la casa editrice Sandro Teti di Roma un bel volume di uno storico russo giovanissimo, nato credo quando è caduto in Unione Sovietica, era un bambino, si chiama Mlechin, che riguarda la politica di Stalin verso lo Stato di Israele. Il titolo è "Perché Stalin creò Israele", infatti fu l'Unione Sovietica che permise la nascita dello Stato di Israele all'ONU nel 1947. Questo non toglie che poi ci sono stati momenti di violenta tensione, di contrapposizione, di rottura, ma lo storico deve saper vedere tutte le fasi. Certo. Bene, allora le auguriamo buon lavoro in attesa di nuove scoperte. Grazie a Luciano Canfora. Tra i falsi ai quali accenna Canfora ce n'è anche uno che ha per protagonista l'altro personaggio di cui adesso vi voglio parlare, che è Cicerone, il grande politico e avvocato romano, il quale è protagonista della biografia che gli dedica Emanuele Narducci, un grande studioso di letteratura latina scomparso da un paio d'anni. Il libro si intitola Cicerone, la parola e la politica, è pubblicato dalla Terza, 450 pagine, 30 euro. Cicerone fu un personaggio complesso, grande oratore, come ricordavo, forse meno grande politico, ma insomma protagonista di uno dei periodi decisivi della storia di Roma, cioè l'ascesa di Giulio Cesare e poi i torbidi che avrebbero portato alla affermazione di Augusto e alla proclamazione dell'impero. La sua vita dunque fu lo specchio di un periodo ricco di colpi di scena, del quale Cicerone è protagonista indiscutibile, soprattutto attraverso la parola che lo ha reso immortale per le sue orazioni, ma anche per l'azione politica nella quale credette fino in fondo, ma che purtroppo lo tradì consegnandolo nelle mani dei suoi sicari. A uno dei nemici acerrimi di Cicerone è dedicato un altro libro di Luca Fezzi, che è uno studioso alla Normale di Pisa, si intitola Il Tribuno Clodio, la Terza, 148 pagine, 12 euro. Clodio fu tribuno della plebe nel 58 a.C., fu soprattutto una delle pedine di Giulio Cesare, salvo poi cambiare, pare, partito. Con i suoi interventi legislativi in particolare colpì proprio Cicerone, lo costrinse all'esilio. Cicerone sarebbe poi tornato, lo stesso Clodio avrebbe fatto una brutta fine a 40 anni, ma la sua traiettoria avrebbe illustrato uno dei periodi appunto più oscuri e decisivi della storia di Roma, della quale lo stesso Cicerone era stato protagonista, che viene ricostruito da Fezzi con grande precisione storica, ma anche con una scrittura brillante che rende quegli anni e quelle vicende lontane molto attuali. E con questo ringrazio gli ascoltatori, grandi e piccoli, ringrazio Daniele Casagrande e Vittorio Mussini in redazione, Fabio Contadori in regia, passo la linea respiro di Laura Bettini, vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, vi auguro buona domenica e vi do appuntamento la settimana prossima.